oggi è il 25 settembre del 2024. E in onda va Prove Tecniche di Trasmissione, seconda puntata del ciclo 2024-2025. Spazio che andrà avanti sino alle 22:30 circa. Non so se ci sarà 25 o'clock. Noi comunque siamo qui e cominciamo con il salutare una serie di affezionati. Ricordiamo che chiaramente Radio Onda Rossa ha bisogno di sostentamento economico, quindi sul sito ci sono le varie modalità di adesione. C'è il banner specifico, si clicca e si può aderire in qualsiasi modo. Allora, a Berlino abbiamo Sara Boy. Un saluto a Marco Magia dalla Sardegna, Tabula Rasa Cortina d'Ampezzo, Anna che ci sta ascoltando qui a Roma, La Furna, grossa realtà industrial piemontese, Doriana Panico in quel di Taranto. Saluto ad Ernesti Panico Brusati di Panico de Palcoscenico.